Nella colonia organismo tutto si regge grazie a pochi algoritmi comportamentali che tendono a un'organizzazione spontanea e ottimizzata della collettività. In questo modo non c'è bisogno di un sistema centrale, di un cervello, di un capo, ma si agisce in base a una sorta di intelligenza diffusa depositata non nella testa degli individui, ma in trend di comportamento che si definiscono con aggiustamenti migliorativi. Tutto questo può avvenire grazie a un sistema di comunicazione decentralizzato, dove un semplice individuo lascia localmente un messaggio, che se utile al gruppo e funzionale al sistema, viene rafforzato da altri individui. Questa intelligenza da sciame non ha bisogno né di messaggi veri e propri, né di messaggi intelligenti. Semplicemente consiste in una modificazione dell'ambiente che è in grado di stimolare il comportamento di altri individui, come ad esempio una scorciatoia obliqua in una aiuola, per evitare di fare l'angolo. La ripetizione di passaggi individuali, stimolati da una vaga traccia nell'erba, incoraggia e sancisce un comportamento collettivo che produce un vero e proprio sentiero. Abbiamo semi dispersi dal vento. Abbiamo semi dispersi dal vento, dal rotolamento sul suolo, dispersi dagli animali in generale o da specifici gruppi come formiche, uccelli, mammiferi, dispersi dagli animali per ingestione o attraverso appigli alla pelliccia, dispersi dall'acqua o per semplice caduta dalla pianta, dispersi per azione dell'ondeggiamento della pianta madre o grazie a meccanismi propulsivi, per disseccamento del frutto o all'opposto per idratazione, e chissà quanti altri ne ho dimenticati. Buongiorno a tutti voi e buon anno nuovo! L'assemblea del pianeta è aperta! secondo me il mio Eden Arete è sicuramente un insieme di tensioni che in qualche modo attraversano, una cosa più interessante che attraversano tutto il territorio italiano, per cui anche se non le vedi e non le senti, però sai che ci sono, e poi hanno questi andamenti che vanno, rivanno, tornano, ritornano, e a un certo punto si concentrano e ti sembra di averle perse, però in qualche modo, ecco, sai che c'è, e quindi una tensione, una vita comunitaria diversa, relazioni umane diverse, anche a relazioni di produzione diverse così per me. Il costante desiderio di incontro e di confronto con gli altri, con le loro storie, può essere uno dei meriti di una comunità. E forse una comunità continua ad avere senso quando questo desiderio è rinvigorito e alimentato. Leggo le parole di Chandra Livia Candiani, Imparo a guardare. Imparo a guardare, a imprestare lo sguardo a chi ha urgenza di tana. Imparo a ospitare. Custodisco con cura le parole. Poi le silenzio per il suono di un'altra lingua, per questo sentire nostro, acuto e pugnalante, che non attenua agli urti. Lascia il male così com'è e accoglie tutte le ferite come cani randagi, con improvvisate ciotole d'acqua e parole poche, smarrite, maldestre. Mani grandi, sorrisi abitabili, vivere e ospitare. Trovare. apicoltura interstellare. In verità io non incontro persone, ma paesaggi. Ho memoria di una voce, di un volto, di un modo di essere inquieti, di una lingua, di un modo di abbracciare. Pensare a noi stessi come persone, questo è l'orrore. L'umanità appartiene anche agli animali, agli alberi, alle nuvole. E non ci salviamo mai da soli, e neppure in due. When I was a baby, they said, be cute, be kind, they said, spread goodness, spread love, if you want. Allora vedete com'è tutto connesso, ma noi non possiamo eludere queste connessioni profonde con la terra e col mondo che ci sta intorno. E proprio noi che siamo immersi nella pratica del sapere abbiamo questo compito di verità. Ecco, per me studiare e fare ricerca significa coltivare l'amore della verità ed essere sempre, sempre, sempre impegnati nelle lotte civili del mondo che si abita, qui e ora, perché questo permette ai nostri saperi non solo di essere utili, ma di essere uno strumento vivo. Non rinunciate mai alla possibilità di intervenire e di prendere parola. Questo esercizio di libertà lo dovete sempre fare, anche se spesso vi sarà detto che non è possibile cambiare il mondo intorno a voi. Non è vero, questa è la più grande menzogna, che non sia possibile cambiare il mondo. Il mondo è sempre in cambiamento e noi siamo chiamati a dare il nostro contributo. La mia esperienza è stata questa, mi ha dato tantissimo e mi ha dato tantissimo non solo nella crescita scientifica, ma nella crescita umana e di percezione di quello che mi sta attorno. Sai cosa succederà negli anni futuri? Ah, questo non lo so, no. Neanche concentrandosi non ha delle visioni? No. Che peccato. Non è sempre piacevole saperlo. A me piacerebbe. Beh, dovrebbe chiedere ai ragazzi.

de Recife, lá de cima, me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis, Ipanema, Iracema e Itamaracá. Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Quello che mi nutre sono gli altri, attraverso le loro rappresentazioni, le loro ramificazioni, i loro simboli, tutto quello che li può rappresentare, quello che dicono, quello che scrivono, quello che mi fanno arrivare. Il miele di una comunità è fatto con le relazioni e credo che questi tempi straordinari ci abbiano fatto capire come le relazioni non siano qualcosa di immateriale, o meglio, sono anche qualcosa di immateriale, ma sono anche per buona parte qualcosa di materiale, fatto di tatto, fatto di strette, di abbracci, di espressioni, di gesti, e quindi di tutto un linguaggio fisico che non è verbale. E mancando questa parte, il miele di una comunità è molto meno nutriente. Il miele di una comunità e di un'avventura collettiva in questo momento per me è bellezza. Capacità di darsi bellezza reciproca, capacità di riconoscere la bellezza degli altri e capacità di produrre bellezza, riconoscendo la potenza che abbiamo in tanti di essere più forti, più intelligenti nel comprendere, nominare e lottare e produrre bellezza insieme, creare momenti di festa, rituali di coesione profonda, condividere musica, movimento, natura, respiro, odori, profumi, danzare. Ecco, non credo che si possano dare lotte oggi che ci costringano a essere l'opposto di quello per cui lottiamo, ma in questo momento invece le lotte si danno e si possono dare se riescono, anche per frammenti, anche solo per momenti, a produrre la bellezza per cui stiamo lottando. Ecco, la bellezza corrisponde a questa legge che spinge dal basso verso l'alto, a contraddizione della gravità e anche delle oppressioni. La bellezza non è soltanto un'opera d'arte, che dovrebbe essere un nostro esercizio di imitazione della bellezza della natura intorno. La bellezza è anche una forza politica.

Nessuno. E tutti. C'è un'assemblea del pianeta una volta all'anno con i delegati dei villaggi, in cima a una montagna. Perché in cima a una montagna? Perché quando si cammina 2 ore in salita si è più intelligenti. E poi c'è un'assemblea di contraccezione una volta all'anno nei villaggi. Contraccezione? Si decide più o meno quanti bambini fare secondo quale raccolto ci sarà. La mattina si gioca un po'. E dopo si mangia. Mangiamo. Ci laviamo. E poi facciamo dei giochi che ci fortificano. Sulla militanza gioiosa, Silvia Federici. Il principio della militanza gioiosa richiede che il nostro modo di fare politica sia liberatorio, in grado cioè di cambiare la nostra vita in modo positivo, di farci crescere, di darci gioia. Se così non è, c'è qualcosa di sbagliato. Preferisco parlare di gioia piuttosto che di felicità, perché la gioia è una passione attiva, non è uno stato d'animo stagnante, non è la soddisfazione per le cose così come sono. Sentire la nostra potenza, vedere le nostre capacità crescere in noi stesse e nelle persone che ci stanno attorno. È un sentimento che nasce da un processo di trasformazione. Il lavoro politico dovrebbe cambiare i nostri rapporti con le persone, rafforzare i legami, darci coraggio nella consapevolezza che non affrontiamo il mondo da solo. Chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I piace condividere il miele della comunità, prodotto insieme nell'attività comune che anima gli spazi e i corpi menti che li abitano, nutrendosi anche delle pulsioni emozionali che li attraversano. Perché la produzione collettiva sia di ottima qualità, sia per quanto riguarda il contenuto che il processo di lavoro e le relazioni, sarebbe forse utile guardare di nuovo con curiosità al mondo delle api. Le api, virtuosamente interagenti e co-decisionali, distinguono nel brusio che sembra indistinto segni e voci e sono in grado di comunicare anche attraverso la danza. Apicultura interstellare. Comunicare concetti con movimenti del corpo. Apicultura interstellare. In questa terra misteriosa e ricchissima di tutti i mieli. Apicultura interstellare. In questa danza dove tutti, vicini e lontani, stiamo danzando insieme. Apicultura interstellare. Comunicare concetti con movimenti del corpo. Vorrei vivere dove vivo, dove sono un'ape. In questa danza dove tutti, vicini e lontani, stiamo danzando insieme. Apicultura interstellare, dove nel DNA ricordo tutto quello che ho fatto nei milioni di anni. Apicultura interstellare, tutte le terre che ho incontrato, tutte le api che ho incontrato, e i mondi, le specie, le terre, le città. Apicultura interstellare, in questa terra misteriosa e ricchissima di tutti i mieli. Apicultura interstellare, vorrei vivere dove vivo, dove sono un'ape, dove posso nuovo ogni giorno e assaggiare il miele. Apicultura interstellare, le figlie del sole. Apicultura interstellare, comunicare concetti con movimenti del corpo. Apicultura interstellare, lo spirito dell'alveare, la logica della complessità, la città d'oro, lo sciame. Papà, a scendere a Nazareta, a fare tutte sti cose per senza niente. Ma pensa un po' che hai fatti tu. che mentre gli altri si fanno i fatti loro, tu stai appresso alle cose di tutti quanti. Quante volte ce la siamo sentita dire qualche frase del genere, o dalla nostra coscienza, nei momenti di crisi, o dalle persone che ci vogliono più bene. In fondo è un po' così. Fare politica in generale, oltre a fare comunità, che poi è un altro modo di fare politica per noi, è un impegno, un sacrificio, che solo per sorte, casualmente di rado, può portare qualche vantaggio, almeno per chi ha un certo modo di intendere la politica, per quei pochi, che però non sono manco così pochi. E questa è una cosa che ti dà forza, perché ti rendi conto, quando sei in un processo collettivo, che la tua pazzia è condivisa. E allora, visto che la anormalità si fonda sempre su un criterio di normale, che è quello che viene descritto dalle discipline, dai saperi, come il giusto comportamento, incrociare tanti che fanno il tuo stesso folle percorso ti serve anche a guardare dentro te stesso e dire: ma vuoi vedere che io non sono poi così tanto anormale, che questa utopia che c'è dentro me stesso è la stessa che hanno altre persone, e che guardando quella degli altri capisco meglio anche la mia, ho possibilità di modificarla, di correggerla, di renderla più forte. Ecco, questo ci dà senso. Insomma, il miele della comunità si dà ed è tanto più forte quanto più forti sono queste relazioni, in assenza di dominazione. E devono tenere dentro il più possibile persone di ogni specie e provenienza, che siano umane e non umane. Anzi, tanto meglio, più c'è diversità, anche in termini di interspecie, tra mondo animale e mondo vegetale, tanto più questo miele è ricco e tanto più la comunità è forte e aperta. Ah! sabe a dónde fue. Pero en la puerta apareció Gordino el cabrón. Cerca de tío Pedro, oh, señor. Hostias y tiros era la única palabra que hay abierta. Y a comer y como dicen dicho, demasiados huevos te pueden dar tortilla. Tío Pedrito, a que si tú no le das café, la mesa se te va al huerto con otro y tú vas a tener pues que darle al papel. Aramba, tío Pedrito, a que si tú no le das bien, la chatilla te pone tierna con otro y tú vas a tener que beberte el café. Il miele, prodotto dalla comunità per la comunità, frutto di tanta strada percorsa e da infiniti fiori visitati, fatto da sguardi complici e da mani tese, da porte aperte, da tavoli e panche consumate da risa, da parole, da grida, da lacrime, dal miele. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Per immaginare veramente qualcosa, dobbiamo averne visto almeno un piccolo frammento. È come con l'attività onirica. Sogniamo cose che combinano elementi della memoria, ricordi, anche in modo completamente nuovo, ma sempre legate a qualche cosa che si è conosciuto, che si è visto. E i beni comuni permettono di vedere cose che altrimenti non vedremmo. È un general intellect in cui ci sono sia sensibilità, sia persone con cui non parleremmo, attività che in genere guardiamo solo nel loro prodotto finale, battaglie, lotte, condizioni materiali che a volte ci appartengono, ma che riusciamo a comprendere soltanto quando riusciamo a farne parte. Anche di lato, di sguincio. E questo è quello che permette l'appartenenza ad una comunità di commoners, che è una comunità ibrida, plurale, forte nei suoi principi, ma debole nelle sue dinamiche dell'appartenenza identitaria. Avvicinarti, io ti dilanio con i miei artigli. Chi sei tu? Io mi chiamo Gmork. E tu, chiunque tu sia, avrai l'onore di essere la mia ultima vittima. Non ti sarà facile uccidermi. Io sono un guerriero. Valoroso guerriero. Combatti il nulla, allora. Come faccio se non varco i confini di fantasia? Cosa c'è di tanto buffo? Fantasia non ha confini. No, non è vero. Tu menti. Sei uno sciocco. E non sai un bel niente di fantasia. È il mondo della fantasia umana. Ogni suo elemento, ogni sua creatura, scaturisce dai sogni e dalle speranze dell'umanità. E quindi fantasia non può avere confini. Perché fantasia muore? Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga. Che cos'è questo nulla? È il vuoto che ci circonda. È la disperazione che distrugge il mondo. E io ho fatto in modo di aiutarlo. Ma perché? Perché è più facile dominare chi non crede in niente. E questo è il modo più sicuro di conquistare il potere. Chi sei, veramente? Sono il servo del potere che si nasconde dietro il nulla. Ho l'incarico di uccidere il solo in grado di fermare il nulla. L'ho perso nelle paludi della tristezza. Il suo nome era Atreyu. Se tanto dobbiamo morire, preferisco morire lottando. Attaccami, Gmork! Io sono Atreyu! Thank you. non so se vivrei abbastanza per comprovare che questa specie umana, che l'umanità, è arrivata, no, alla pratica quotidiana, normale, di questo diritto alla felicità. Ma so, sono convinto, di che l'esforzo di tanti, come anche il mio piccolo sforzo per esplicare, per definire, per individualizzare a tutto questo che si antepone fra noi e il diritto supremo alla felicità, e oggi è il lavoro politico più importante che si può fare. Uniti come in una scalata. Sali, sali, sali. Nel passato di tempo siete a un buon punto. Da 50 anni salite sentendo l'uno il calore dell'altro. A una certa altezza dovrebbe fare freddo, ma il tepore invade ancora le vostre membra. Siete soddisfatti, stanchi e felici. Il panorama è stupendo. Davanti la roccia sembra la stessa. Non è vero. Non avete perso tempo, voi ora siete più su. Ora, illuminata da un pallido sole, c'è una fragolina selvatica. La cogliete, ve la spartite, com'è dolce. Non sappiamo dove, ma sappiamo che è qui. Non sappiamo quando, ma sappiamo che è adesso. Non sappiamo tante cose, ma sappiamo che la nuova forma nasce dalla forma che tutto comprende, e che il processo è complesso e difficile, ma non si fermerà. Unser System macht die Frauen zum Spielzeug und zur Gebärmaschine. Regierungen, Kapitalisten und Priester verteidigen die Ehe. Und wir Frauen? Nein! Wir brauchen die Ehe nicht, die uns entehrt, herabwürdigt, zu Parasiten macht. Was hat Liebe mit den armseligen Zeremonien des Staates und der Kirche zu tun? Cultura interstellare. Apicultura interstellare. Apicultura interstellare. interstellare. Comunicare concetti con movimenti del corpo. Apicultura interstellare. Ogni seme germoglierà.